Conferma il calo del PIL nel primo trimestre, fase stagnante, variazioni intorno allo zero, dicono dall'Istituto di Statistica, e viene adesso abbattuta un'agenzia di una valutazione di Standard & Poor's che dice che il debito pubblico e privato di Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Slovenia, la necessità di ridurlo potrebbe bloccare la ripresa per anni. Sull'immigrazione, oggi pomeriggio vertice tra Alfano e i sindaci, il ministro della difesa Pinotti, Mare Nostrum tutta sulle spalle della Marina, non ce la facciamo più. Bomba artigianale nella notte contro la sede del Partito Democratico di Firenze, nessun ferito, un gesto preoccupante, secondo il segretario locale del partito, probabile una matrice anarchica. Quasi caduta nel silenzio la vicenda delle ragazze rapite da Boko Haram, gli estremisti islamici rapiscono intanto altre 20 donne. Mondiali, sospeso lo sciopero dei lavoratori della metro di San Paolo, mentre in città si riunisce il consiglio della FIFA dopo lo scandalo corruzione, pressione dagli sponsor per cancellare i mondiali in Qatar. E dal ritiro degli azzurri, Prandelli riflette sull'attacco, Immobile o Balotelli, mentre Super Mario annuncia che si sposa con la sua fidanzata Fanny. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete come sempre le potete commentare, fare le vostre valutazioni al 349-238-6666 oppure scrivendomi su Twitter oppure visitando la nostra pagina Facebook e scrivendoci le altre notizie che tratteremo nel corso di questa edizione. Tra le altre notizie che toccheremo c'è la vicenda di un maxi sequestro di carne infetta in tutta Italia, approfondiremo insieme ai carabinieri del NAS che se ne sono occupati. Apriamo però parlando di economia e dei dati diffusi questa mattina dall'Istat. In apparenza è il miglior dato da agosto 2011, ma la produzione industriale di aprile, in crescita annua dell'1,6%, sconta un traino non marginale legato alla Pasqua, in aprile quest'anno a marzo nel 2013. E non a caso il settore alimentare è tra i migliori, con un balzo che sfiora i 6 punti, molti dei quali legati però a questa differenza di calendario. In generale il trend resta debole, molto male l'energia, affondata da fotovoltaico e temperature più alte della media, bene metallurgia, tessile, mezzi di trasporto. Il dato, comunque positivo nel primo trimestre, non basta però per risollevare le sorti dell'intera economia, con l'Istat a confermare un calo dello 0,1% del PIL tra gennaio e marzo. Colpa dei mancati investimenti, in particolare mezzi di trasporto e costruzioni, mentre nell'industria si rivede il segno più dopo 10 trimestri consecutivi in rosso. Qualche segnale di risveglio arriva anche dai consumi delle famiglie, un magro più 0,1%, miglior dato dalla fine del 2010. E già questo dice tutto. Luca Orlando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica ci porta a tornare sui ballottaggi. Ieri vi abbiamo fatto sentire in Effetto Giorno molte voci di sindaci neoeletti. Tra questi c'è Roberto Natale, ex sindaco antica Morra, che torna a fare il primo cittadino di Casal di Principe. Lo ha intervistato Alessandro Milan. Sentiamo. Perché sindaco? È incredibile e non era pensabile fino a qualche anno fa, dice Saviano. Ma perché la struttura criminale, l'occupazione militare del territorio era forte, qualche anno, stiamo parlando di 5-6 anni fa, poi l'intervento della magistratura, delle forze dell'ordine, ma anche l'intervento del libro di Saviano e della sua presenza qui a Casal di Principe ha provocato e ha determinato una destrutturazione di questa organizzazione criminale. La gente si è sentita all'improvviso libera, libera di poter esprimere il proprio voto, la propria volontà. Una signora anziana nell'uscita dalla cabina elettorale alla domanda del figlio, allora votato, ha detto sì, ah, finalmente mi sono sentito di poterlo fare in modo del tutto libero. E questo è quello che è avvenuto. Mi dica in conclusione come si sconfigge o si contrasta concretamente da sindaco la criminalità organizzata. Facendo semplicemente il proprio dovere, non abbiamo bisogno di fare delle battaglie, delle guerre, abbiamo bisogno semplicemente di svolgere il ruolo, la funzione istituzionale nel modo più corretto, trasparente e partecipato che sia possibile. Nel fare questo si dà fiducia alla gente e si fa il vuoto intorno ad organizzazioni criminali o a potentati di qualsiasi tipo. Tutto questo mentre il Partito Democratico, dopo aver perso Livorno e Civitavecchia, riflette, e Perugia, riflette sulla presunta sconfitta. Il commento del nostro Dario Ceccarelli. Fantastico, insuperabile. Il Partito Democratico nel farsi del male, nel tafazzismo spinto, non ha rivali. Fa tutto da solo, se la canta e se la suona, e giù legnate. Per le amministrative, pur avendo battuto la destra 167 a 43, ha già avviato un bel processo interno di quelli che tanto piacciono al popolo della sinistra. La sconfitta di Livorno, che dopo 60 anni, diciamolo, ci può anche stare, è l'occasione per un nuovo scontro tra rottamatori e rottamati, tra i renzisti e i custodi delle sacre tavole. Siamo di sinistra? Ma quanto siamo di sinistra? Perché vinciamo? Perché perdiamo? Ma sì, fatevi del male. Grillo, che alla fine l'ha spuntata solo in tre città, se la ride, altro che corona di spine. E Berlusconi, che ha perso perfino col sindaco più amato d'Italia, quel Cattaneo di Pavia, cosa dovrebbe fare nella vita? Portare Dudu ai giardinetti, invitare Fitto per una minestrina a Cesano Boscone? Un bel vizio, quello del PD. Non gli basta vincere, vuole anche stravincere facendo la parte del perdente. E fatti da parte una volta tanto. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di Renzi e Berlusconi, probabilmente non farà piacere al Presidente del Consiglio questa frase di Flavio Briatore, intervenuto questa mattina a Mix 24 di Giovanni Minoli. Senta Briatore, le faccio un'ultima domanda. Lei dice che Berlusconi dovrebbe trovare il suo numero uno, l'ha detto anche in apertura, e non il numero due. E dice però che lo deve trovare subito, adesso, perché è l'ora. Potrebbe essere lei il numero uno di Berlusconi? Io credo che l'abbia trovato. Sì? E chi è? È Renzi. Parliamo adesso e continuiamo a parlare di Partito Democratico, in realtà per un fatto di cronaca, perché un piccolo ordigno artigianale è stato fatto esplodere la notte scorsa in una corte del palazzo che ospita il PD a Firenze in via Forlanini. Si parla, così dice il questore, di matrice anarchica. Lucia Maffei ha intervistato il segretario del Partito Democratico di Firenze, Fabio Incatasciato. Sentiamo. Allora, nel colmo della notte, intorno alle 4, una forte esplosione. Con un ordigno rudimentale ma ben preparato per fare rumore, per fare molta paura. I muri sono tutti anneriti, un colpo forte ha svegliato un po' di vicinato, sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la Digos, che hanno trovato l'innesco. Si tratta di un ordigno non banale, ecco, insomma, preparato ad hoc. Quali sono stati esattamente i danni? I danni sono il muro tutto annerito, in terra c'è tutta, ovviamente, fusa tutta la struttura di plastica che conteneva questo ordigno, cose che si possono ripulire ma che, insomma, hanno un segnale di avvertimento, non sappiamo di che cosa, che non ha, ripeto, non ha, io non ricordo, ecco, una cosa di genere. Ha un partito, ha una grande sede del partito, qui c'è la sede regionale, c'è la sede del partito provinciale, quello fiorentino, insomma. Un elemento, un salto di qualità. Avete già dei sospetti su chi possa essere stato? Noi no, le indagini ci sono, tra l'altro c'è un sistema di telecamere, vediamo che cosa ci racconterà. Queste sono notizie che arrivano appunto da Firenze. Ci segnalate via sms le vicende della Calabria. Sì, ci stavamo per arrivare. L'assessore all'agricoltura della regione Calabria, Michele Trematerra, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Catanzaro, che questa mattina ha portato all'esecuzione di molte perquisizioni. Sono 15 nel complesso gli indagati, tra i quali l'ex sindaco e un ex consigliere del comune di Acri. Tra le altre cose sono stati perquisiti anche gli uffici della regione. È ritenuto dagli inquirenti un elemento di spicco dell'andrangheta Angelo Gencarelli, che è l'attuale componente della segreteria appunto dell'assessore Trematerra. Maggiori dettagli naturalmente su questa vicenda quando ne avremo. Andiamo adesso alla relazione fatta questa mattina del garante della privacy. Uso sempre più intenso dei social network e in generale di internet e poi pagamenti con smartphone e tablet, la continua localizzazione attraverso i sistemi GPS. I confini del diritto alla privacy si fanno allora sempre più labili, da qui l'importanza del lavoro svolto dall'autorità garante, che nella relazione annuale indica le prospettive di azione verso le quali occorre muoversi nell'obiettivo di costruire un'autentica ed effettiva protezione dei dati personali. Sotto la lente di ingrandimento del presidente dell'autorità Antonello Soro finiscono in particolare i cosiddetti cosiddetti giganti di internet, che secondo la relazione tendono ad occupare in modo sempre più esclusivo ogni spazio di intermediazione tra produttori e consumatori, assumendo un potere che si traduce anche in un enorme potere politico, un potere sottratto a qualunque regola democratica, avverte il garante per la privacy. Soro parla poi di nuove forme di criminalità in rete che sottraggono almeno 500 miliardi di dollari, della necessità di una maggiore responsabilità nelle intercettazioni. Tra i servizi sanzionati infine Street View di Google per 1 milione di euro, istruttoria in atto anche per Mountain View. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torneremo anche a parlarne in effetto giorno di immigrazione e ospiteremo il sindaco di Porto Empedocle, uno dei comuni più in crisi. Oggi ci sarà l'incontro tra il ministro dell'interno Angelino Alfano e appunto l'ANCI, rappresentanti dei sindaci, per discutere della situazione e soprattutto evidentemente dell'accoglienza. Dopo i 1.300 arrivati ieri, altri 1.027 migranti, fra i quali 115 donne e 141 minori, sono attesi oggi nel porto di Taranto. Sempre in giornata altri 200 profughi arriveranno invece a Pozzallo a bordo di una petroliera maltese. Sono stati tutti soccorsi in mare nelle ultime ore nell'ambito della missione Mare Nostrum. Nel porto siciliano stamattina sono stati anche fermati due presunti scafisti. Secondo le forze dell'ordine erano loro al timone dei natanti protagonisti dei due diversi incidenti avvenuti durante le fasi di soccorso, nei quali 3 immigrati hanno perso la vita e altri 6 sono invece spariti in mare. Dopo l'ultima ondata di sbarchi, i centri di accoglienza, soprattutto in Sicilia, sono ormai al collasso. Il ministro dell'Interno Alfano oggi incontrerà il presidente dell'ANCI Fassino, che chiede risorse straordinarie da destinare proprio all'accoglienza. Dopo i ripetuti appelli del governo italiano, ieri intanto anche l'ONU ha concordato sul fatto che la questione degli immigrati nel Mediterraneo non è un problema che l'Italia può affrontare da sola. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora l'indagine sul Mose dalle parole di Baita, imprenditore coinvolto nello scandalo dal quale sta muovendo un pezzo dell'inchiesta. Spunta anche il nome dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta. Lo scandalo dilaga, travalica i confini veneziani e arriva a Roma. Milanese, Tremonti, Matteoli e Gianni Letta. L'ex sottosegretario viene tirato in ballo, secondo indiscrezioni di stampa, da Pier Giorgio Baita, il principale testimone dell'inchiesta sul Mose. Lui era il direttore del traffico, l'assicurazione sulla vita. Così lo avrebbe definito Baita. Molto vicino all'ingegner Mazzacurati, presidente del consorzio Venezia Nuova, Letta avrebbe indicato ditte da scegliere, chiesto favori, sbloccato pratiche. Se abbia poi anche preso soldi, questo Baita non lo dice, perché afferma di non saperlo. Non è la prima volta che il mio nome viene evocato, risponde a stretto giro Letta, ed è ovvio che lo sia, perché negli anni di governo mi sono occupato di tante vicende, ma sempre nella più assoluta correttezza e trasparenza. Dunque, chiosa l'ex sottosegretario, ci vuole proprio molta fantasia per trasformare un normale e doveroso contatto istituzionale in una richiesta, o peggio, in un versamento. Secondo Baita, Letta poteva influire su ministeri determinanti come infrastrutture e economia, e poteva chiedere di far lavorare, per esempio, anche una società di proprietà dell'ex ministro Lunardi. Per fortuna non sono io a dover smentire, scrive Letta. Nella famosa ordinanza sul Mose, il GIP riconosce che quei contatti sono del tutto privi di rilievo penale. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sarà il tema della corruzione uno dei principali punti all'ordine del giorno per il presidente del Consiglio Renzi, nel momento però nel quale tornerà dal suo viaggio in Estremo Oriente. Saluto Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore a Shanghai. Gerardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, tu ti trovi a Shanghai, Renzi è ancora in Vietnam, dovrebbe arrivare oggi in Cina? No, è già arrivato a Shanghai. È già intervenuto al padiglione italiano dell'Expo di Shanghai, l'unico padiglione internazionale che è rimasto aperto dopo l'Expo del 2010, ha già incontrato i rappresentanti di circa 1000 aziende italiane, ha parlato l'ultima volta, era 4 anni fa, era venuto lì da sindaco di Firenze ed è tornato oggi da presidente del Consiglio. Attualmente, in questo momento, è al colloquio con il sindaco di Shanghai, una realtà di 24 milioni di persone, e subito dopo partirà, tempo permettendo, perché anch'io se mi trovo in aeroporto per raggiungere Pechino e ci sono tempo bruttissimo a Pechino, quindi non sappiamo a che ora riuscirà ad arrivare a Pechino. A Pechino domani incontri istituzionali con il primo ministro cinese Li Keqiang, il segretario generale del Partito Comunista Xi Jinping, e poi l'apertura della prima sessione del Business Forum con i rappresentanti di 50 imprese italiane, le più importanti, e con il ministro dello sviluppo economico Federica Zingaretti. Se vuoi avere qualche cosa, sì, molto, molto brevemente qualche dettaglio su, insomma, su che cosa ci si attende. Ci si attende ovviamente una, se la visita di Monti 2 anni fa era tutta incentrata, era il momento in cui c'era la crisi dei debiti sovrani, l'Italia era veramente sull'orlo del burrone, e quindi Monti era venuto qui per incontrare i dirigenti dei fondi sovrani e per chiedere maggiore fiducia e soprattutto investimenti nei titoli del debito pubblico italiano. Adesso invece con Renzi c'è un discorso che riguarda investimenti, maggiori investimenti italiani in Cina e cinesi in Italia. Agli imprenditori italiani ha detto guardate che forse nel passato voi siete stati un po' criminalizzati come tutti quelli che delocalizzavano, le critiche sono giuste per gli eccessi, ma noi vi sfidiamo a fare di più, vi chiediamo che ci sia più Italia in questa parte del mondo. Allora Gerardo, io ti ringrazio, naturalmente continueremo a sentirti in tutti i nostri appuntamenti di informazione su questa visita di Renzi. Noi adesso sentiamo cosa succede sulle strade, poi dopo ci ritroviamo e parliamo di un'altra importante trasferta italiana, anche se di tutt'altro tipo, cioè quella della nazionale in Brasile. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In aprile cresce la produzione industriale ai massimi d'agosto 2011, ma intanto l'Istat conferma il calo del PIL nel primo trimestre, fase stagnante, variazioni intorno allo zero, dicono dall'Istituto di Statistica. Sull'immigrazione oggi pomeriggio vertice tra Alfano e i sindaci, il ministro della difesa Pinotti, Mare Nostrum tutta sulle spalle della Marina, non ce la facciamo più. Bomba artigianale nella notte contro la sede del PD di Firenze, probabilmente la matrice è anarchica. Quasi caduta nel silenzio la vicenda delle ragazze rapite da Boko Haram, e gli estremisti islamici hanno sequestrato intanto altre 20 donne. Di questo torneremo a parlare più avanti, ma adesso ci occupiamo in realtà di mondiali, perché mentre il CT Prandelli non si sbilancia sulla formazione e resta aperto il dubbio se sarà Immobile o Balotelli a guidare l'attacco azzurro, e mentre lo stesso Balotelli con un tweet annuncia che ha chiesto alla sua fidanzata Fanny Negesha di sposarlo, al vertice mondiale della FIFA si ragiona sul mondiale del Qatar, che potrebbe saltare. Anche gli sponsor scendono in campo e chiedono chiarezza. Tutti in pressing sulla FIFA per il Mondiale 2022, la cui assegnazione al Qatar ora appare davvero in pericolo dopo lo scandalo legato alla presunta corruzione avvenuta prima dei voti decisivi per battere la concorrenza di Australia, Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud. Si muovono colossi come Sony, Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Kia e Visa, i 5 brand che sono main sponsor della FIFA. Dall'elenco resta fuori, e non a caso, il 6° main sponsor, l'Emirates. Il tenore negativo del dibattito attorno alla FIFA non è positivo per il calcio, per la federazione e per i suoi partner. Fa sapere ad esempio l'Adidas che con la Federcalcio Mondiale ha un contratto in essere fino al 2030. Immediata la risposta della FIFA affidata a Thierry Veil, direttore marketing della Federcalcio Internazionale, che rassicura anche due sponsor minori come Budweiser e British Petroleum. Quelle degli sponsor, dice Veil, sono richieste già contemplate dall'indagine in corso sulla questione. Ma sul tema torna a modo suo soprattutto il presidente della FIFA, Sepp Blatter. Le accuse sui mondiali del Qatar è una questione di discriminazione e di razzismo, dice, riferendosi ai sospetti di corruzione. Parole destinate ad infiammare il congresso della FIFA che si apre a San Paolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mangaratiba. Il tramonto, le palme, la sabbia bianca e l'anello di diamanti al dito di Fanny Negesha, con due foto su Instagram e 40 caratteri, Super Mario ha annunciato la sua proposta di matrimonio alla modella 23enne. Ha detto sì, il più importante sì della mia vita, ritwittato già 945 volte, il tweet dell'attaccante rossonero fuga tutti i dubbi sulla presunta rottura della coppia. Una storia, quella tra Mario e Fanny, nata durante la stagione calcistica al Manchester City di Mancini. Tra alti e bassi, diversi addii e ritorni, ora i due sembrano decisi a impegnarsi per tutta la vita. Qualche segnale c'era già da diversi giorni. Una settimana fa Fanny Neguescia aveva pubblicato su Instagram la foto di una donna incinta commentando: il suo nome è Sogno. Pronta la risposta di Balotelli, che sempre sul social network fotografico ha dichiarato: non è e non sarà solo un sogno. Desidera un figlio, un altro, visto che è già padre della piccola Pia avuta da Raffaella Fico, e progetta un matrimonio. Per Super Mario una bella notizia che lo distrarrà certamente in vista della partita con l'Inghilterra dalla concorrenza in attacco di Ciro Immobile. Marisa Labanca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo, torniamo anzi alla cronaca italiana per parlare di un maxi sequestro di carne infetta, così ci è stato presentato anche dalle agenzie, effettuato ai carabinieri del nucleo antisofisticazione di Perugia. Saluto Marco Vetrulli, che ne è il capitano. Buongiorno capitano. Buongiorno a lei. Innanzitutto voglio capire che consistenza ha e che dimensione ha questo sequestro di carne, perché lei capirà che avremo all'ascolto anche gente piuttosto preoccupata, per così dire. Sì, allora, l'indagine intanto è iniziata nel 2011, riguarda 21 province e 12 regioni d'Italia, e nel corso di questa indagine abbiamo sequestrato e distrutto 500 bovini che risultavano infetti da malattie tipiche dei bovini: tubercolosi, brucellosi e brutonghe. Quindi nessuno di questi animali è arrivato nelle cucine dei cittadini. Questo è già un elemento importante. Quanti indagati ci sono, capitano? Sono 65 indagati per vari reati, ma insomma riguardano l'associazione a delinquere, quindi insomma reati anche puniti con pene rilevanti. Perché oltre a questi animali, diciamo, infetti, commercializzavano dei bovini vendendoli come di razza pregiata, mentre invece erano dei comuni bovini, con una frode nel portafoglio dei consumatori. Naturalmente, e questi invece nei supermercati, per così dire, nella distribuzione ci sono finiti in sostanza? Qualcosa potrebbe, di questa seconda tranche potrebbe essere finita, quindi però nulla di preoccupante per la salute. Le regole sono sempre le stesse per i consumatori, cioè comprare carne di allevatori locali che sono conosciuti e sono controllati, quindi sempre occhio alle etichette, che è uno degli elementi fondanti, insomma. Sì, anche se poi l'etichetta può essere falsificata, come abbiamo visto, no? Sì, no, qui più che altro la falsificazione era a monte, nella documentazione a monte. Però, ripeto, se l'allevatore è un allevatore locale, ma è conosciuto, insomma, quello già è un sintomo, insomma, di garanzia. E grazie a Marco Vetrulli, capitano dei carabinieri del NAS di Perugia, per essere stato con noi. Parliamo adesso di trasporti. Però nella fattispecie non di trasporto aereo, anche se mi dicono che abbiamo già in linea Mauro Rossi, che è segretario nazionale di Filt CGL, per parlare di Alitalia. Buongiorno Rossi. Buongiorno a voi. Prima di parlare con lei, facciamo così, ci sentiamo invece come si muovono gli italiani. C'è una ricerca dell'Eurispes che dice che l'auto privata è il mezzo di trasporto più usato in Italia, il 29,4% lo usa sempre, sono i dati del Libro Bianco sulla mobilità e i trasporti presentato appunto oggi da Eurispes. Luca Masciola è il direttore dell'osservatorio appunto su mobilità e trasporti, sentiamolo al microfono di Adriana Fracchia. Se noi riuscissimo ad allineare i nostri tassi di motorizzazione privata a quelli europei, spostando queste quote di mobilità al trasporto pubblico, al trasporto dolce, quindi biciclette, persone che si muovono a piedi, e a tutta l'altra gamma di offerte che si sta introducendo nelle città, quindi tendo il car sharing, il bike sharing, il carpooling, ebbene noi potremmo reimmettere nel sistema 14 miliardi di euro di esternalità, quindi di costi per inquinamento, per congestione da traffico, per incidentalità. Al momento gli italiani sono coloro che all'interno del nostro continente prediligono maggiormente l'auto privata di proprietà. Cambiamo appunto argomento e parliamo invece di Alitalia e in realtà di situazioni occupazionali. Allora Rossi, innanzitutto mi sa dire perché, se lo sa, se c'è un motivo particolare, il motivo per il quale è stato rinviato l'incontro che ci doveva essere tra l'altro con Lupi e Poletti, con voi, con le rappresentanze sindacali, è stato rinviato a domani pomeriggio? Ma sinceramente non conosco il motivo, ma ancor di più non conosco il motivo della convocazione precedente, che ha cambiato titolo durante la giornata di ieri. Dopodiché, siccome era programmata già da diversi giorni la riunione di giovedì con l'amministratore delegato del Torchio, la riunione di oggi poi abbiamo ricevuto questa revoca. Avete ricevuto questa revoca. Sento una cosa, i numeri che ha fornito ieri del Torchio, 2200 esuberi, si è parlato di 2200 esuberi, dice tra l'altro oggi il ministro Lupi se bisogna capire se in questi esuberi sono previsti anche, sono compresi anche gli 800 lavoratori in cassa a zero ore da 4 anni, se rientrano in questa cifra oppure no. Come giudicate questo dato, molto semplicemente? Ma un dato sconcertante, nel senso che se si deve iniziare un confronto su un piano industriale relativo a un investimento massiccio di Etihad in Alitalia, partire dagli esuberi è quantomeno intempestivo, nel senso che bisognerebbe prima capire qual è il piano industriale della nuova Alitalia targata Etihad. Ci dicono attraverso comunicazioni varie che è una svolta, l'inizio di una nuova fase, una prospettiva di rilancio dell'azienda. Questa cosa non sta insieme ai licenziamenti, quindi io partirei prima dal piano industriale. Partire puntando a licenziamenti massicci è il modo sbagliato e noi siamo contrari. E però se il piano industriale fosse solido e quei 2200 esuberi nell'ambito di questo piano industriale ci stessero, siete disposti a discuterne, anche discutendo naturalmente di ammortizzatori sociali col governo per queste persone? Ma non c'è dubbio che se il piano fosse solido ci troveremmo un bel pezzo avanti, perché un piano che guarda all'aumento di attività naturalmente ha bisogno di lavoratori, lavoratori che oggi sono in un'azienda in crisi, per questo ci sono già accordi di utilizzo di ammortizzatori sociali, un'azienda che nel corso degli anni è uscita dal fallimento della vecchia Alitalia Lai, ha sbagliato completamente il piano industriale come purtroppo a quel tempo inascoltati dicemmo. Oggi vive questa crisi e la possibilità dell'ingresso nel capitale di un socio industriale molto forte. Ora, partendo dal piano industriale, ci metteremo davvero poco tempo a capire se si guarda una prospettiva di rilancio. Se così fosse e si rendesse necessario ricorrere agli ammortizzatori sociali transitoriamente in un primo momento per poi piano piano verificare lo sviluppo dell'azienda e quindi la capacità di assorbire la forza lavoro collocata temporaneamente in ammortizzatori sociali, non ci sarebbe problema. Senta, però preso prima il piano industriale. Del Torchio dice o così oppure rischiano anche gli altri 11.000. Ma questa è tecnica peraltro sbagliata, stravecchia, gli ultimatum, i penultimatum, strategia negoziale che deve lasciare il campo al confronto vero. Grazie a Mauro Rossi, segretario nazionale FILT CGIL, per essere stato con noi. E in bocca al lupo per il confronto di domani, a lei come a tutte le parti in causa. Ci fermiamo, poi c'è la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Produzione industriale ai massimi da agosto 2011, in termini di crescita naturalmente, ma intanto l'Istat conferma il calo del PIL nel primo trimestre. Oggi pomeriggio vertice tra Alfano e i sindaci sull'immigrazione, ne parleremo più avanti col sindaco di Porto Empedocle, uno dei comuni naturalmente coinvolti da quest'ultima ondata di arrivi. C'è stata una bomba artigianale nella notte contro la sede del PD di Firenze, si ipotizza una matrice anarchica. Ai mondiali, in Brasile è stato sospeso lo sciopero dei lavoratori della metro di San Paolo, mentre in città si riunisce il consiglio della FIFA. Si sta ipotizzando addirittura di cancellare i mondiali in Qatar, o almeno su questo premono gli sponsor. La borsa. Borse in diretta. Più 0,11% il FTSE MIB, più 0,03 il FTSE All Share, in una giornata a dire la verità non particolarmente mossa nemmeno nel resto d'Europa. Parigi più 0,03%, Francoforte più 0,13%, Londra meno 0,35%. Leonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, non mi sembra ci siano particolari spunti oggi. No, il listino italiano ha rallentato poco fa, infatti riuscivo a guadagnare mezzo punto percentuale, sospinto per lo più dalle banche che invece ora hanno rallentato il passo. Va segnalato semmai che Banca MPS nel secondo giorno dell'aumento di capitale da 5 miliardi ancora non riesce a far prezzo, i titoli non sono entrati in contrattazione, mentre i diritti perdono l'1,7% attestandosi a 21,13 euro. Tra l'altro è stato ricalcolato il FTSE MIB sulla base di quello che è successo in questi due giorni, se non sbaglio, Eleonora, no? La borsa ha annunciato che nel corso della giornata darà indicazioni più precise, comunque questa sera, con la chiusura di questa sera, ricalcolerà appunto il FTSE MIB. Allora, grazie anche per oggi ad Eleonora Micheli di Radio Corriere Sole 24 Ore. Vi segnalo solo i titoli più in crescita sul FTSE MIB: Enel più 1,38, Ferragamo più 1,22, Jux più 1%, Mediaset più 0,85, i peggiori: la Pop Milano meno 1,45%, Pirelli meno 1,34, Unipol 6 meno 1,18, Popolare Emilia Romagna meno 1,14. Grazie Eleonora, buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E vi voglio dare due notizie battute da poco dalle agenzie. Innanzitutto c'è il giudizio dei tecnici del servizio bilancio della Camera sul decreto IRPEF. I destinatari del bonus, scrivono i tecnici di Montecitorio, sono stati identificati in base ai redditi del 2011, ma oggi la platea potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista del reddito. E ancora dicono che il rinvio del pagamento della TASI inserito nel decreto IRPEF non sarà neutrale per il bilancio dello Stato, ma è suscettibile di recare effetti finanziari. Quindi nuove osservazioni ai tecnici di bilancio della Camera. L'altra notizia arriva dal capo di Stato Maggiore della Marina, Giuseppe De Giorgi. A proposito di immigrazione, torneremo sull'immigrazione tra poco. Abbiamo 8 nostri militari che non hanno sintomi della malattia, ma sono positivi al test della tubercolosi. Questa è la notizia appena arrivata. Noi intanto andiamo all'estero e poi torneremo a parlare di immigrazione per parlare di Boko Haram, perché c'è stato un nuovo rapimento di donne. Un paio di furgoncini, uomini armati a bordo, un villaggio nomade, l'obiettivo. Era mezzogiorno quando i terroristi di Boko Haram hanno costretto 20 ragazzi ad entrare nei loro veicoli sotto la minaccia delle armi. 3 ragazzi del villaggio hanno tentato di difendere le amiche e sono scomparsi, anche loro caricati sui furgoni. Non si sa dove siano ora, potrebbero essere in una località sconosciuta, in una zona isolata dello stato di Borno. È l'ultimo atto di una serie di violenze feroci compiute dal gruppo Boko Haram, che cerca di istituire con la violenza e la paura uno Stato islamico in Nigeria. Una notizia, questa, del nuovo rapimento, che riporta alla ribalta anche la sorte delle oltre 270 liceali rapite che restano nelle mani dei sequestratori. Si era parlato nei giorni scorsi di una loro liberazione. Oggi tutto torna al punto di partenza. Di loro non si hanno notizie. Ieri, nel corso di un raid aereo, intanto, il governo nigeriano ha ucciso 50 terroristi. L'altro modo, vero, per contrastare questo gruppo resta però la cultura e l'informazione. Forse per questo gli Stati Uniti hanno deciso di finanziare la realizzazione di una nuova emittente televisiva satellitare che trasmetterà 24 ore su 24 dal nord della Nigeria. La nuova emittente, se si riuscirà a farla partire, costerà all'ufficio antiterrorismo del Dipartimento di Stato americano 6 milioni di dollari. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora gli aggiornamenti dall'Ucraina. Sul campo, la realtà nell'Ucraina orientale è ancora fatta di scontri tra separatisti e governativi e di morte. Dati difficilissimi da verificare parlano anche oggi di decine di vittime tra Slaviansk e Donetsk, attribuite da ciascuna delle due parti agli avversari. Sembra però che si stia avviando il piano per destabilizzare la regione, illustrato dal nuovo presidente Poroshenko Vladimir Putin. Russia e Ucraina ora si parlano ogni giorno attraverso un gruppo di contatto di cui fanno parte il presidente ucraino e l'ambasciatore russo Zurabov, tornato in questi giorni a Kiev. E questa mattina Poroshenko ha ordinato la creazione di corridoi umanitari che permettano ai civili di abbandonare le zone in cui si combatte. È ancora difficile immaginare come questi contatti con Mosca possano indurre i separatisti a trovare un'intesa con Kiev, ma sia il Cremlino che Kiev che la Casa Bianca a Washington sembrano fiduciosi. Lo stesso clima che si respira a Bruxelles, dove tra questa sera e domani proseguiranno i negoziati tra russi e ucraini con la mediazione europea per evitare una nuova guerra del gas. Naturalmente un filo lega il fronte energetico a quello politico. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. Ancora dall'Italia e ancora dati economici, quelli dell'assemblea, uscite dall'assemblea annuale dell'Associazione Italiana Industrie e Prodotti Alimentari. Aumenta la spesa per i prodotti di benessere e salute come tè, caffè, integratori alimentari, mentre diminuisce il consumo di surgelati, ma anche dei prodotti per l'infanzia. Il presidente dell'AIPA, Cesare Ponti, commenta i risultati della ricerca. L'eccellenza italiana è dimostrato anche su quei prodotti che hanno raggiunto un valore anche di piacere e di gratificazione non indifferente. Oggi ci sono delle scelte da parte del consumatore proprio dovuto alla crisi delle famiglie. Quindi vanno sulla salute e su quei piaceri che riesce ancora a soddisfare e che ritiene indispensabile, come il caffè, come può essere il tè, il miele. Quali sono i prodotti che vengono maggiormente penalizzati? Sono i prodotti che sono di impulso e che non servono alla famiglia in un modo indispensabile. Sono anche quei prodotti dell'infanzia, un calo dovuto proprio alle minori nascite, come sappiamo che avviene in Italia. Invece sono cresciuti quei prodotti che hanno più esportazioni, ad esempio i sughi oggi all'estero stanno avendo un ottimo riscontro. Ma bisogna dire che anche in Italia la passata di pomodoro sta tenendo proprio grazie anche al fatto di essere un prodotto tipico dell'alimentazione italiana. E allora, adesso dovremmo parlare di immigrazione, stiamo cercando di raggiungere il sindaco di Porto Empedocle che ci ha promesso, vi faccio trovare il libero il telefono, ed è scomparso nel nulla. E quindi facciamo una cosa, parliamo di musica. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over, try to make a bag of memory over and over. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Siamo già a 25 milioni circa di visualizzazioni nel giro di un paio di giorni e questo è l'ultimo pezzo di Psy, insomma diventato famoso, lo sapete, con Gangnam Style. In questa canzone, insieme a Snoop Dogg, si intitola Hangover. E che cos'è l'hangover? È il dopo sbronza, la sbronza è il giorno dopo la sbronza, tra l'altro da un pezzo che arriva da un uomo che ha dichiarato qualche mese fa, lo sapete, di essere alcolizzato. Tra l'altro da segnalare che il video è pieno ancora una volta di riferimenti a esagerazioni ed eccessi della cultura coreana. Per esempio il bere pesante, in base ei dati dell'OMS il paese vanta il consumo più alto di alcol pro capite in Asia, alla base appunto di malattie croniche correlate. Jack with a much I guess. Inny money mo, catch a lady by the toe. And yeah, boom and yeah, but boy, the gachi bada bitty bow. Drink it up and guess it. Bottoms up get wasted. Prima di andare sul traffico, un'altra notizia battuta dalle agenzie che riguarda il MOSE. Nell'ambito dell'inchiesta sul sistema emerge un aspetto che riguarda le bonifiche delle aree contaminate di Porto Marghera. È quello che denuncia l'assessore veneziano all'ambiente Gianfranco Bettini. Gli accertamenti illuminano crudamente, dice, questo dramma nel dramma. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I look at the White House as a Shakespearean court and power and movements. Maureen Dowd, grande columnista, grande editorialista del New York Times, e per una volta sentite anche la sua voce. E non leggete soltanto di lei o di quello che scrive. E vi ho fatto sentire Maureen Dowd perché questa grande giornalista americana, devo dire, è veramente una delle più simpatiche, brave columnist, quindi editorialista, racconta sempre delle storie molto interessanti che danno, come dire, l'idea, il polso di dove si sta muovendo l'America, sia da un punto di vista sociologico e di costume che da un punto di vista politico, perché poi è perfida nelle sue osservazioni, sia che si parli di Barack Obama, di Bush o di Clinton, insomma lei non guarda in faccia a nessuno. Eppure si è trovata al centro di una grossa polemica che ha coinvolto americani su Twitter, su internet, su live blog, eccetera, che ha a che fare con l'uso della marijuana. Una polemica, devo dire,